radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. الشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده ربنا الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. قلبي حبي خيري رسلي ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة Buonasera a tutti. Allora, 2 giugno, festa della Repubblica, noi di Radio RAM, Radio Antenna Migrante, siamo a Salerno, nel punto Acli, punto famiglia Acli Salerno, per l'Iftar insieme. Questo evento che è stato organizzato da più voci, in primis dall'associazione Ubuntu, e abbiamo deciso di passare una serata qui assieme per poter rappresentare quello che succede una notte del 2 giugno in provincia di Salerno. Siamo qui con Bahia e con Eugenio. Io sono Giulio Escalona, mix alle manopole c'è Antonio Cortazzo. E qui adesso sentite un po' di confusione perché si stanno preparando i musici dopo l'ottima cena che abbiamo degustato. L'evento sicuramente avrete notato era previsto all'inizio per le 8 di sera, sono le 9 e mezza. Dopo il momento della preghiera si è rotto il digiuno e siamo stati accolti con ogni onore in questa cena stupenda dove erano presenti nello stesso piatto il couscous e la pizza margherita. Questa battuta mi ha detto Eugenio che potevo dirla, l'ha creata lui e io l'ho rubata senza ritegno, e lo ringrazio sia dell'invito che della bellissima esperienza che stiamo facendo qui stasera. Non inizio con lui però per le domande, ma chiedo a Bahia un commento quasi tecnico per chi come me non sta partecipando al Ramadan. e si trova qui a festeggiare la chiusura del digiuno della giornata. Cos'è l'iftar? Come si svolge? E non ti preoccupare, perché abbiamo un microfono, quindi anche se suonano fortissimo di là non succede niente. Se bisogna sgridare qualche bambino invece dobbiamo spegnere il microfono, va bene? Quindi avvisami prima, ok? Facciamo un gesto a Tony e lì al mixer, e... ok. Dunque, che siamo qui stasera per cosa? Allora, la rottura del digiuno si fa ogni giorno di Ramadan per 29-30 giorni, dipende dalla luna. Quando si vede, si può dire il termine del mese, o 29 o il 30. Ramadan è un mese di privazione, di tante cose, è un mese in cui ci avviciniamo a Dio di più, è un mese in cui rinunciamo a tante cose che per noi sono naturali durante l'anno, ma il Ramadan senza stanchezza o senza forza ci troviamo a rispettare quel mese con da tutti i punti di vista. Ramadan dura 30 giorni, come ho detto. Ogni giorno inizia il mangiare dal tramonto e finisce all'alba. Il tramonto, l'inizio è iniziato alle 8 e poi tutto il mese, ogni giorno diminuisci con un minuto di più, finché è arrivata adesso alle 8 quasi in mezza, 27-28. L'alba la stessa cosa, che prima è iniziato alle 4, poi diminuisce ogni giorno un minuto, il tramonto aumenta, invece l'alba diminuisce perché il giorno si allunga di più. Ok, beh, io direi che questa è un'ottima introduzione, e trovandoci qui però chiedo anche all'autore della battuta della pizza e del couscous, Eugenio, noi ci troviamo qui stasera. E abbiamo assistito al momento iniziale che ha aperto questo momento conviviale della preghiera in una stanza dove alla parete c'è un crocifisso. Qui ci sono persone come me che si trovano ad una festa senza magari avere ben chiare le coordinate di quello che sta succedendo. Come mai ci troviamo qui? Quali sono le comunità che qui ci sono stasera e qual è il valore di una serata del genere per sia per le comunità ma anche per il territorio? Ecco, qual è, oltre al senso, qual è anche il valore di quello che stiamo facendo qui? Giulio, il couscous che incontra la pizza poi fondamentalmente non era tanto una battuta, nel senso che oggi... le comunità musulmane, soprattutto quella delle nuove generazioni, declina i valori della fede in un contesto culturale dove l'italianità è predominante, evidentemente. E quindi queste generazioni oggi sono riuscite a coniugare, ecco, i valori delle proprie origini, i valori spirituali, riuscendo a mixarli al meglio con quella che è la realtà che si vive tutti i giorni, con quella che è la realtà della loro nuova cultura, con quello che è il loro essere italiani fondamentalmente. Quindi abbiamo, ecco, il panorama delle nostre società è di sicuro trasformato in questi ultimi anni, da un paese, come dire, del tutto omogeneo, oggi è viva Dio, insomma, riusciamo a stare insieme attraverso sapori, culture, una spiritualità diversa, e questo non può che essere solo che come dire, un valore aggiunto per questo paese che oggi vive un giorno di festa importantissimo, e non a caso tra le attività, insomma, dell'associazione Ubuntu che Bahia presiede da circa 2 anni. Questo elemento, cioè quello dell'incontro, dello scambio, del dono da vivere durante il mese di Ramadan, è qualcosa che, come dire, fa parte di uno dei primi aspetti fondanti dell'associazione. Noi eravamo in questo periodo l'anno scorso in piazza Bellizia, ad esempio, dove abbiamo accolto e ci siamo incontrati con centinaia di persone. Quest'anno, per motivi logistici e con altri impegni che ci troviamo a vivere nelle prossime settimane, non potevamo reggere i tempi e l'impegno di quell'organizzazione. Quindi però il nostro vivere questo, da musulmani, questo periodo di spiritualità così intenso non poteva esimerci dal non vivere, da non aprirci all'incontro nuovamente, e l'abbiamo fatto quest'anno cercando una formula di dimensioni più ridotte, coinvolgendo e donando ai ragazzi ospiti della comunità Obiettivo Futuro di Battipaglia, giovani che arrivano dal Gambia, dal Benin, dal Ghana, e che sono lontani da casa, che vivono momenti come questo, in questo mese particolare, dove appunto la mancanza degli affetti e della famiglia si fa sentire maggiormente. Immaginiamoci 27 vigilie di Natale tutte in un mese. Noi la immaginiamo vicino ai nostri cari, con mamma, con papà, con i miei fratelli. Oggi abbiamo cercato di donare a loro un momento di familiarità che avesse un po' il sapore di casa, e speriamo insomma di esserci riusciti fondamentalmente. Allora sì, io non so, forma ridotta, sì, è chiaro, magari stando al chiuso non si riescono a raggiungere numeri molto grandi, come forse siete abituati in passato, 300 persone l'anno scorso. Qui c'è sicuramente una dimensione più familiare, che non dispiace però per chi almeno per la prima volta è qui. Personalmente posso dire che sicuramente è la festa della Repubblica più bella che io ricordi, perché, e che credo ricorderò a lungo, perché la naturalezza con cui ciò avviene poi nel quotidiano, che magari non si riesce a notare perché sembra ancora qualcosa di nuovo, di meraviglioso, di esotico. Invece è bello vedere come si declina in una naturalezza che già c'è, che già esiste. Quindi sì, sicuramente questo. L'evento di cui parlavi, chiaramente la data di oggi è stata scelta non per il 2 giugno, ma perché c'è ancora un piccolo dibattito sulla chiusura del Ramadan, ma anche poi ci sarà l'evento del 9 giugno della Festa dei Popoli a Salerno, per cui credo che tutte le associazioni sono impegnate in un modo molto, molto concreto. Ritorno a Bahia dell'associazione Ubuntu, nostra mediatrice culturale. Nei prossimi giorni le comunità come saranno chiamate? Cosa succederà per la chiusura del Ramadan? C'è qualche evento in particolare? Ci si prepara in modo diverso per la festa? Come va avanti, ecco, la cosa? Allora, Ramadan, credo che la festa sarà il martedì. Finirà. Mancano 2 giorni. Ci dispiace molto perché finirà, perché anche noi ci abituiamo di questo mese, anche il ritmo del mangiare, poi soprattutto perché veramente ci avviciniamo molto a Dio, e soprattutto che è un bel mese in cui uno non parla male, non aiuta l'altro, dona molto, e c'è molta, soprattutto la condivisione che stiamo facendo oggi, anche questa entra nella nostra religione. Allora, Ramadan non vuol dire che tu anche quando fai la condivisione di mangiare solo con persone che sono musulmane, ma con altre religioni, così è più, cioè, più un dono più grande per Dio, perché anche questo convivere comunità e convivere soprattutto le religioni è una cosa fondamentale nella nostra religione. La fine di Ramadan sarà martedì, come ho detto prima. Si chiama l'Eid al-Fitr, allora in cui facciamo fine a Ramadan. Ci sarà una preghiera grandissima in cui tutte, quasi, non è provincia di Salerno, ma quasi così, si accumulano tutti, si incontrano a Batibaglia, un grande giardino, in cui si fa una preghiera tutti insieme, poi un iftar con tutta la comunità musulmana. Dura un po' di tempo, non molto lunga, però un bellissimo momento di condivisione in cui ti senti proprio a casa tua, con tutti i familiari, amici, con i costumi belli, colorati del nostro paese, ognuno mette la più bella cosa che ha. Noi questa festa compriamo proprio vestiti nuovi, allora per i bambini, allora aspettiamo questo giorno per uscire tutti nuovi, e andiamo, dopo che facciamo la preghiera e prendiamo una cosa piccola con i nostri amici nella moschea, andiamo a visitare quello che ci ha detto che faceva anche il nostro profeta, che andava a visitare tutte le persone, vicini, familiari, anche con quelli in cui non ci siamo visti tutto l'anno. Questo giorno noi ci ricordiamo di tutti. Poi telefoniamo, ci alziamo la mattina almeno 2 ore solo per telefonare tutti i familiari in continuazione. Allora prendiamo la rubrica, iniziamo a scendere una alla volta finché finiamo tutta la famiglia. È veramente un bellissimo momento, perché ti senti pulita dentro dopo questa vicinanza di un mese, e ti senti che rompi tutti questi rapporti, i rapporti che qualche volta noi rompiamo con i nostri cari per sciocchezze. Questo giorno ci toglie tutto e dici: no, oggi lo chiamo, e quella è la bellezza del Ramadan e dell'Eid, Eid al-Fitr. È un momento, immagino, fortissimo per tutta la comunità, immagino la gioia. E invece sulle cose buonissime che abbiamo mangiato stasera, buonissime anche piccantissime, e se magari, ecco, Eugenio riesce a recuperare la cuoca, una delle cuoche. E sulle cose da mangiare ci sono delle cose, dei cibi speciali, no? Immagino che Eugenio prima la paragonava a 30 vigilie di Natale, e ho fatto un attimo mente locale su quello che accade a casa mia durante la vigilia di Natale, e ci sono delle cose tipiche. Cosa avviene su questo? C'è qua grandi cuoche, grandi donne. Appena arrivate, ecco, imbarazzatissime. Siamo cercate di dividere i compiti, che ogni una deve preparare una cosa, così abbiamo un tavolo un po' diverso. Abbiamo cercato di fare quello che siamo riusciti, speriamo che è stato bello e buono. Sì, il Ramadan soprattutto cerchiamo di fare di pietanze che proprio non sono i soliti che noi facciamo durante tutti i giorni normali dell'anno. Cerchiamo di fare anche tante cose, però con porzioni piccoli, perché non ce la facciamo a mangiare dopo tutto il giorno senza acqua, senza niente. Noi l'occhio chi mangia, mettiamo il tavolo pieno, però beviamo e basta, ci sentiamo già piene. Sì, abbiamo fatto varie cose, io parlo di mie, poi le altre parlano ognuno delle cose che ha preparato. Io ho preparato dei panini piccoli imbottiti con tonno, mais, formaggio e ottimi, spettacolari, buonissimi, assaggiateli appena potete. Almeno soddisfazione. Si chiamano patbot. E poi ho preparato con pasta filo, quelli imbottiti con calamare involtine, però si chiamano, noi li chiamiamo le nemme. Dalla faccia, perché dice a casa tua li chiamate così? O cioè non sei convinto? Ah, ok, ok. Quindi li chiamiamo le nem, è una parola pure francese. Imbottiti con merluzzo, con pesce, merluzzo, calamare e gamberetti. Questi che sono riuscita a fare io. Poi i dolci lo mangiamo dopo, alla fine. Abbiamo preparato un sacco di dolci buoni, però wow, ok. Perfetto. Va bene. Adesso ok, ci siamo. E Dora, il segreto del tuo couscous è sicuramente da quello che posso dire adesso, dopo sono sotto l'effetto del peperoncino piccante e sto sudando tra capelli e barba. No, freddo no, freddo no, Sara, è più una ricarica, no? Come se mi fossi mangiato qualcosa energetica, ecco, non lo so, l'effetto è quello. Un po' spaventa e un po' invece attira. Questo è un po' l'effetto. È arrivata una tua foto su WhatsApp della preparazione stamattina, quindi da quanto tempo ci stai lavorando per il couscous? Da stamattina, infatti, prima ho lavorato le verdure, le ho pulite, poi dovevo contare le porzioni, eccetera, eccetera, e poi avevo preparato la miscela, quella che la miscela di spezie e peperoncino, per arricchire questo couscous, che è una cosa in Tunisia, è una cosa sacra, nel senso quando ci sono questi serate, un matrimonio, qualsiasi evento, non deve mancare il couscous. Ecco, forse un po' esagerato. Sul piccante invece mi dicevi anche di una differenza tra sud, nord. Come, questo è quello del sud, immagino, o ce ne esiste uno ancora più piccante? Allora, questa è la versione media del sud, perché ci sono anche versioni ancora più piccanti. Ma allora, le regioni dal nord al sud, ci sono delle regioni dove veramente, come qua in Calabria, i calabresi mangiano tutti piccante, la stessa cosa. Al nord-est e anche al sud-sud-est mangiano piccantissimo. Fantastico, voi non lo vedete, ma anche il nostro tecnico audio Tony si è dovuto mettere a maniche corte, perché chiaramente la temperatura è salita all'improvviso, e accompagnati anche dall'ottimo tè marocchino e quella alla menta, giusto, che si fa buonissimo. E anzi, andrò a berne un altro po' dopo. È finito, ok, giustamente è finito, ok. E passo la parola a Sara e a Naim. Voi invece vi siete occupati stasera di quale pietanza? Io mi sono occupata di una pietanza non tanto tradizionale, perché ho fatto i mini gatto di patate, quindi tradizionalmente italiane, ma che sono non c'entrano, però è ciò che sa fare la mia generazione, quindi l'ho preparato e l'ho portato. Spero che sia stato di vostro gradimento, però cioè nel contesto è stata veramente una bella serata, piena multietnica, mix di colori e di amici. Fantastico. E invece Naim, tu ti sei occupata di? Allora, io ho occupato di un tipo di panini, come crepe, però si chiamano semen. Tu non l'hai assaggiato veramente? Perché non hanno messo... sì, buoni, poi ho fatto 50. Sì, pure su buoni, sì, sì. La devi assaggiare veramente, perché ho visto nel tavolo nostro non l'hanno messo. L'hanno messo, no, non c'è, e si chiama Msemmen, era buonissimo, la devi assaggiare veramente. Sì, sì. Io direi di andare a recuperare subito questo difetto e richiamo Bahia. Qui stanno, non so quanto vi arriva di segnale, Tony, il segnale dell'audio arriva, perché ci sono un bel gruppo di bambini che adesso è passato ai tamburi dopo la cena, quindi c'è l'aria di festa continua. E Bahia, la mattina come ci si prepara per affrontare la giornata? Da domani mattina continuerà? Come si inizia invece con la giornata? Inizia normale, perché ormai siamo abituati. Solo che c'è esempio la differenza. Noi in Marocco, quando arriva Ramadan, nei paesi musulmani, riducono pure gli orari di lavoro. Allora, esempio, iniziamo alle 8, finiamo alle 6, inizia sempre alle 9, 9 e mezza. O lavoro, scuole, tutto, cambia il programma di tutto il paese. E poi finiamo sempre a mezzogiorno, iniziamo alle 2, finiamo alle no, rimane continuo e finisci già alle 3:30, le scuole, il lavoro, tutto chiudono. Perché anche la forza, esempio, il ritmo della persona, non è che c'è tutta questa attività come gli altri giorni. Invece noi, anche questo, l'immigrato paga un pochino, perché deve adattare con il ritmo del lavoro, che è uguale a tutto l'anno. Uno sforzo in più, come diciamo con Eugenio a tavola prima, chiaramente poi i mesi estivi forse rendono il tutto un po' più complicato, al di là degli orari che sono poco flessibili. Forse quest'anno siete stati fortunati, perché sembrava di stare a novembre. Però immagino che appunto poi nell'andare degli anni, no, l'anno prossimo sarà ancora, arriverà in inverno. Allora, Ramadan inizia ogni 33 anni, viene con lo stesso mese. Esempio, sì, quest'anno a maggio-giugno, l'inizio giugno, dopo 33 anni arriva con lo stesso mese e diminuisci piano piano finché torna allo stesso mese. Per la fortuna adesso stiamo scendendo verso la primavera e l'inverno. Invece gli anni scorsi sono 4-5 anni che abbiamo... anche di più, forse 6 anni ultimi, abbiamo passato tutto di luglio e agosto, che è il caldo. Però ve lo dico una cosa di me, c'è una cosa più forte che viene da al di su, c'è una serenità e non lo so, io ho capito in Ramadan, capisco tante cose, soprattutto che capisco veramente che la mente che fa funzionare tutto, perché quando tu dici che in Ramadan devo fare il digiuno, anche se sono 14 o 16 ore, cioè, è normale, perché tu soffri un po' caldo, come fosse in estate, quando anche uno mette un po' di vestiti o sta anche caldo, soffre un po' caldo, ma anche Ramadan così. Però non c'è veramente una difficoltà, perché siamo convinti di quella cosa che noi facciamo, e cioè, non è che lo sopportiamo, ma cioè, non è che... ospiti che arrivano è pur sempre una festa e... no, chi è che ti ha salutato? Delle Acli. Ah, ecco, no. Ok, allora lo conosceremo dopo meglio con i dolci. Perfetto, è arrivato, passato il padrone di casa, ecco. Lo chiamiamo dopo. Tutto qua. Sì, tutto qua è una condizione profonda, ecco, insomma, che non... You cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. Every time you commit one more mistake, decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. Trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Eugenio, un'ultima domanda per te e poi chiaramente lasceremo spazio alla musica, al resto della festa. Non vi voglio trattenere oltre perché vedo che ci sono tante cose che ancora stanno andando avanti. Eugenio, Bahia e voi dell'associazione, anche AIMA, quindi per il resto dell'anno l'associazione Ubuntu, chiaramente ci sono questi momenti, abbiamo partecipato alla prima edizione del Gran Galà della Festa dei Popoli, il 9 l'abbiamo ricordato, saremo presenti a Salerno all'undicesima edizione della Festa dei Popoli, proveremo ad arrivare in orario questa volta senza corse. Nel resto dell'anno, tra le attività dell'associazione, come è impegnata l'associazione? Ecco, questi sono dei momenti che chiaramente sono fondamentali e scandiscono, immagino, il tempo, il ritmo e il calendario dell'associazione. Per il resto dell'anno che cosa succede? Lo faccio a Eugenio la domanda. L'intreccio di momenti, eventi di cui accennavi avviene anche grazie alla vicinanza, al supporto e alla forte relazione di amicizia che ci lega con i tanti amici che sono, ecco, anche qui stasera e hanno accettato il nostro invito. Penso all'ufficio diocesano Migrantes, penso alla cooperativa Aries Onlus, agli operatori della Rada, al gruppo scout Agesci di Battivaglia, ad esempio, oltre che alle ACLI che ci ospitano questa sera. Le attività, ognuno di noi fondamentalmente, ogni membro della nostra associazione è impegnato nel sociale. Tutti noi viviamo momenti di lavoro che, ecco, appunto vengono declinati sempre su un tema così centrale come quello delle migrazioni che viviamo oggi. Quindi tra di noi ci sono mediatori culturali, insegnanti di italiano come lingua straniera, giovani sindacalisti, quindi tutto ciò, ecco, richiama già a sé, l'associazione richiama già a sé le tante attività, il lavoro, il volontariato che ognuno di noi svolge quotidianamente. In più, attraverso Ubuntu, che come immagino accennava già prima Bahia, fa parte di una rete nazionale di associazioni che confluisce nel CONGE, il Coordinamento Nazionale delle Nuove Generazioni Italiane, vive, ecco, a parte come dire, i momenti conviviali come quello di stasera, proviamo ad approfondire tematiche importanti, quindi siamo spesso, come dire, coinvolti in momenti di dibattito dove approfondiamo questioni, ecco, alle volte legate sempre alla religione, che resta uno dei grandi interrogativi che alle volte fa paura e alle volte desta curiosità. Proviamo ad organizzare dei momenti anche ludico-ricreativi per i giovani, ecco, proprio quelle nuove generazioni che oggi, soprattutto nel sud Italia, si trovano in quella fascia d'età che va dai 5 ai 13 anni, quindi provare a dare anche a loro uno strumento, un modo per valorizzare le loro competenze, per valorizzare e approfondire i loro hobby, i loro interessi. I corsi di italiano sono un altro aspetto fondamentale, dove la prima generazione di immigrati in Italia vive dinamiche diverse. L'esempio calzante è quello di chi riesce in un ambiente lavorativo a svolgere le proprie attività in un contesto italianofono e quindi ad apprendere l'italiano in un modo abbastanza anche rapido e veloce, e chi invece si ritrova in un contesto omogeneo di persone appartenenti alla propria comunità, e quindi dopo 10 anni ci ritroviamo ancora persone che hanno difficoltà ad esprimersi in un italiano utile a loro stessi per farsi comprendere, per raggiungere i propri scopi e anche per proteggersi alle volte, perché ecco, la lingua è uno strumento fondamentale che come momenti come questo può aiutarti a raccontare l'altro che alle volte è schiacciato dalla comunicazione, ecco, di massa, che semplifica in maniera estrema tutto, quando invece, ecco, c'è bisogno di approfondire, di dare, ecco, delle spiegazioni ulteriori, proprio per ritornare a quella cosa di cui parlavamo un po' di mesi fa, dove l'incontro è la chiave di volta per comprendere, capire e incontrarsi nel modo giusto, fondamentalmente. Sì, la questione è questa. Anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo, di rappresentare anche un territorio che ha una complessità maggiore rispetto a quello che si vuole far raccontare. E questo, come dicevi anche tu all'inizio della trasmissione, è qualcosa che avviene con estrema naturalezza, che c'è già e scorre continuamente durante la quotidianità di tutti, e probabilmente alcune volte basta girare lo sguardo dove l'attenzione è un po' minore per scoprire delle cose che fanno apparire le cose colorate in modo diverso. È lo slogan della nostra radio, ascoltare il mondo con occhi diversi, e speriamo che attraverso il nostro le nostre piccole azioni radiofoniche e il sito stranieriincampania.it, dove si possono trovare le informazioni sulla radio, informazioni su eventi e attività come queste che si stanno svolgendo qui in questo momento, può diventare un po' più facile da intercettare, ecco. E qui la festa va avanti, noi dobbiamo assaggiare assolutamente ecco, non riuscirei, mi servirebbe un corso di lingua di quelli che vengono organizzati qui per imparare a dirlo così bene. Io posso solo dire shukran e vi lascio all'appuntamento del 9 giugno in diretta da Piazza della Concordia per l'evento, l'undicesima edizione della Festa dei Popoli. Seguiremo la lunga diretta del pomeriggio della Festa dei Popoli, e intanto vi invitiamo a tenervi aggiornati sui canali social dell'associazione del Stranieri in Campania, su internet abbastanza facile. Saluto tutti e ringrazio quanti attorno a me hanno partecipato alla trasmissione: Sara, Dorra, Eugenio, Naima, Bahia, e vedo tante altre persone che conosco ma hanno preferito non parlare al microfono. Antonio Cortazzo alla tecnica, e buona serata a tutti e alla prossima. Radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranieriincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.